Quante strade un uomo deve percorrere prima di potersi chiamare uomo? Quante volte devono volare le palle di cannone prima che siano proibite per sempre? Quante volte un uomo può girare la testa per finta di non vedere? Quante volte un uomo deve guardare in alto prima di poter vedere il cielo? E quante orecchie un uomo deve avere prima di poter sentire altre che piangono?